Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa e va adesso in onda Semilia, musica dal mondo. La puntata è dedicata alla musica elettronica psichedelica. E comincio con i francesi Mr. Modo e Ugly McBear, che sono noti per il loro sound ispirato alla musica anni 90 con influenze funk e jazz. E il brano si chiama Danger Modo. Dear friends, it's so beautiful up here, dear friends, it's so clean. Yes, dear friends, there's no drunken drivers here, no broken glass, no air. Over. You must be way out there. Over. I'm high, all right, but not on false drugs. I'm high on the real thing. Il prossimo brano fa parte della colonna sonora di un videogioco di simulazione, sto parlando dei Sims, ed è stata realizzata dal duo inglese Lemon Jelly e si chiama Sim Time, Sim Place. Haim è un musicista inglese e ascoltiamo il suo brano Hinterland. In the hinterlands, the black swan burns. This is the way it goes. Almost everywhere. With everybody and everything. You're the one. You don't know. The god, the rat, the snail, whatever's out there, I have to go see it and look at it and endure it and maybe not endure it, but it's needed, that's all. I really can't explain it. If I could, I wouldn't go. Dark, you take it, or you become a normal, civilized person from 8 to 5. Get married, have children, Christmas together. Here comes Grandma. Hi, Grandma, come on in. How are you? You know, shit, I couldn't take that. I'd rather murder myself. I just decided I either had to starve, make it, go mad, come through, or do something. I could not do the 8 to 5. I would have been a suicide or something. I'm sorry. I could not accept the snail's pace, 8 to 5. To me, this is the sickest of sick. Regal è un musicista spagnolo e ascoltiamo il suo brano Searching for Peace. Peace. prossimo brano è stato realizzato dal produttore di musica sperimentale Boom Bip e il rapper Dos One, membro del collettivo Anticon. Anticon è un collettivo e un'etichetta discografica indipendente in Los Angeles, fondato alla fine degli anni 90 da un gruppo di artisti hip hop sperimentale. Il loro brano si chiama Dead Man's Tale. Deserted islands, wage a war of castaway irony, floating bottled cries for the H word, back and forth, absolutely no concept. Oh, look, a bottle. Ora ascoltiamo il duo inglese, di nuovo il duo inglese Lemon Jelly con il brano Nervous Tension. Nervous tension. regularly. Train your mind through repetition to follow the suggestions. Then you'll be ready to progress to side two. Toro Cocorot è un trio tedesco di musica sperimentale elettronica. Ascoltiamo il loro brano Cars. We'll be right back. prossimo brano è del giapponese Brock Beats, che compone musica sperimentale elettronica, e il suo brano si chiama Let's Go Home. Hi Eddie and Emma, let's go home. Hi Mom! Good job! Del duo inglese che si chiama Quasium e il loro brano è Liquor. L'irlandese Cormac è noto per mescolare jazz, hip hop e musica elettronica. E Irwin Welsh è l'autore del libro Trainspotting, dal quale è stato tratto il film. Ha contribuito con la narrazione del prossimo brano. E dice, vi faccio una breve traduzione, non darmi un altro schermo, ho passato tutto il giorno a guardare il laptop che si chiama lavoro. Non darmi un altro schermo, ho passato tutta la notte a fissare un televisore da 70 pollici, si chiama svago. Non farmi diventare tuo amico su Facebook, passa da me e portami a fare un giro. Non darmi un altro schermo, non ho bisogno di un iPad per sognare. Non darmi un altro schermo, urlerò, urlerò, urlerò. E il brano si chiama Another Screen. Don't give me another screen. I spend all day looking at one of my laptop. It's called work. Don't give me another screen. I spend all night looking at a 70-inch television. It's called leisure. Stoke City versus Bolton Wanderers in the best league in the world. Best league in the world. Don't buy me a Kindle for Christmas. Just come by and rekindle my heart. Ora ascoltiamo il musicista francese De Quillo Self-Tet e il suo brano Cora, dedicato allo strumento a corde africano. Thank you. Ora ascoltiamo gli Smoked Beat, che è un duo francese che vive in Canada, e hanno remixato il brano del musicista nigeriano Fela Kuti, Let's Start, in maniera più lenta dell'originale. Bello. Let's start. Venus in Motion è un progetto della DJ, cantante e musicista autodidatta inglese Angel Johnson. Ascoltiamo il suo brano Time. Time is small. chiudere la puntata vi metto il brano Traveler del musicista britannico Talvin C, remixato dal DJ musicista francese Kid Loco.